GR Europa. L'unanimità degli Stati membri non basta, bisogna ricordarsi che alla fine serve il consenso del Parlamento europeo. È il monito lanciato stamane dal Presidente della Commissione, José Barroso, in vista del vertice UE di giovedì e venerdì, che dovrà trovare un'intesa sul bilancio europeo 2014-2020. Gran Bretagna e paesi rigoristi chiedono più tagli, a cui è contrario l'Europarlamento. Saranno negoziati molto difficili, ha riconosciuto Barroso, ma è importante che questa settimana si concluda con un accordo. Ed è importante anche trovare un accordo sul tema del ritardo dei pagamenti. Su questo fronte l'Europa bacchetta l'Italia. L'Italia ha recepito il 1 gennaio la direttiva europea, ma nei fatti che cosa è accaduto? Sentiamolo. Le imprese italiane il 1 gennaio 2013 avrebbero dovuto stappare una bottiglia di champagne, non solo per l'arrivo dell'anno nuovo, ma perché il primo giorno dell'anno è entrata in vigore una direttiva europea che obbliga la pubblica amministrazione a saldare i pagamenti entro 30-60 giorni. Attualmente siamo nell'ordine di 100 giorni di ritardo. Un mese dopo se ne discute un convegno milanese, dove più che la soddisfazione permangono i dubbi, visto che l'Italia ora rischia di essere multata da Bruxelles per il modo troppo generico in cui sono indicate le tempistiche a disposizione delle amministrazioni per saldare i pagamenti a favore delle imprese. Sono infatti ammesse proroghe a 60 se concordate con le parti, un'elasticità che potrebbe ammettere deroghe contrarie alla direttiva, che invece consente i pagamenti a 60 giorni solo a imprese pubbliche e settore sanitario. L'Italia dovrebbe quindi correggere il decreto entro il 16 marzo 2013, ma per ora tutto tace. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Valentina Furlanetto ne ha parlato anche con gli eurodeputati. Allora cominciamo a farvi sentire che cosa ne pensa Francesco De Angelis. Adesso però bisogna passare agli stessi fatti, nel senso che non si può più aspettare, perché il rischio è molto serio, tante piccole e medie imprese rischiano di fallire, servono tempi certi per i pagamenti, quindi affermare la certezza del diritto. In Europa questo è già realtà in molti paesi, come mai l'Italia è così in ritardo? Ma purtroppo per noi è un cattivo esempio, noi siamo maglia nera da questo punto di vista. Io spero adesso che diventiamo maglia rosa, nel senso che l'Italia deve correre velocemente e deve raggiungere standard europei. Quindi da questo punto di vista riuscire a fare in Italia quello che si riesce a fare in altri paesi. Sentiremo altri pareri nei prossimi appuntamenti. Intanto una notizia che riguarda il web. I servizi dell'Antitrust UE hanno ricevuto la proposta di impegni vincolante da parte di Google per cercare di mettere fine in modo consensuale all'abuso di posizioni dominanti su diversi aspetti delle ricerche online. Insomma, un accordo sul modello francese magari. Abbiamo appena ricevuto le proposte, ora dobbiamo analizzarle in dettaglio, ha affermato il portavoce del commissario UE alla concorrenza, Joaquín Almunia. Google, il cui presidente Eric Schmidt aveva incontrato Almunia lo scorso 18 dicembre, aveva tempo fino a ieri sera per presentare le sue proposte. Bene, con questo è tutto. Un saluto da Gigi Donelli. GR Europa torna domani poco dopo le 3. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.